Ciao stronzi! Sì, è tutto ok, stronzi, è tutto ok. Perché se ce lo dice Pierpaolo Capovilla del Teatro degli Orrori, oh, noi ci crediamo, Perché non credere? Perché non credere a questo pazzo demoniato alcolizzato, che però si regala, insomma, delle tante belle canzoni. Bene, Dario, come stiamo? Oggi, vabbè, stiamo un po' nervosi perché c'è la guerra in giro e soprattutto c'è questa crisi che blocca le esportazioni e noi, noti lavoratori in nero dell'underground musicale, mischiati sotto i palchi e dietro le quinte in lavori più beceri come mescolare i cocktail del cantante di turno, quest'oggi siamo qui per... essenzialmente dedicare questa puntata a Dio che ce l'ha mandata di sfiga e oggi ci ha cancellato un progetto su cui stavamo lavorando, ma è tutto ok. Bene, come Back to the Human Noise noi ci eravamo lasciati l'altra volta parlando di Amato Mio, questo interessante progetto bolognese che non ci interessa sponsorizzare. Che non ci interessa sponsorizzare più perché la nostra bella marchetta quotidiana l'abbiamo già fatta l'altra volta, però se vogliamo buttarla lì il 12 suonano, non mi ricordo dove, però andatevela a cercare. Sì, ecco, ricordiamo che il nostro Jack and Apes DJ Jack è membro nonché illustre chitarrista della formazione bolognese che abbiamo presentato nella scorsa puntata, ma appunto bando alle marchette perché... Sì, oltre agli Amato Mio l'altra volta abbiamo fatto sentire Vic Chestnut, questo interessante cantautore di Athens, ma per questa puntata io direi di aprire con un altro pezzo invece più simile a quello con cui abbiamo aperto. Si tratta infatti di un gruppo italiano, i Devochka, quindi cambiamo completamente sponda e torniamo nel nostro bel paese. Devochka da non confondere con i Devochka scritti con CH e T, che sono il gruppo che ha registrato la colonna sonora di Little Miss Sunshine. Bene, se li avete presenti, ecco, quelli non c'entrano proprio un cazzo. Tutt'altra roba. Qua si parla di post-hardcore all'italiana. Il disco è prodotto da Giulio Favero e si chiama Perché Sorridere, e noi vi facciamo sentire proprio la title track, che si intitola appunto Perché Sorridere. Ma col CK! Col CK, ma perché sorridere? Dai, tu non lo so, tu perché sorridi? Perché c'è la K. Perché c'è la K? Vai, allora sentiamocela. We'll be right back. Bene, ci siamo sentiti perché sorridere. Boh, io sinceramente non mi viene in mente nessun motivo contingente perché sorridere. Forse sorridiamo, magari stasera sorrideranno quelli che verranno qua a Vag 61 a mangiare. Ricordiamo, c'è la cena di autofinanziamento del coordinamento migranti. Ma io un motivo, forse, perché ce l'hai un motivo. Ci stavamo guardando il video su YouTube qua con Jack. E offre un interessante punto di vista sulla felicità e sui motivi del nostro sorriso che come degli ebeti abbiamo stampato in faccia quotidianamente. Vi invito tutti ad andarvelo a vedere, non sto qui a raccontarvelo. Sì, ma in effetti magari anche non facciamo riferimenti diretti alle cose che si vedono nel video, visto che è passato questo benemerito pacchetto sicurezza e ormai non si sa più cosa dire senza rischiare, ma non lo so, io non lo so. Lasciamo parlare le immagini che vedrete per i cazzi. Quindi andatevi a cercare i Devochka con CK perché sorridere. E noi intanto che ci vediamo un altro video, vi facciamo sentire anche a voi un altro pezzo che si intitola Modo d'essere. Sempre da Devochka, sempre dall'album Perché sorridere. No, dall'album precedente. Non mi ricordo come si chiama. Dall'album precedente. Ma chi se ne frega, che non ci ricordiamo, vabbè, ma non stiamo qui. Quindi andiamo subito con la musica. Devochka. Quando vecchio è bella pestata anche questa canzone, anche questo video è molto interessante, consigliamo la visione. Molto dark, sì, molto orrore e dolore. È un vero punk hardcore come se ne sentiva ai vecchi tempi. Sì, mi ricordano un po' i CCCP, no? In alcuni strascichi. Sì, ma non ricordiamo dei CCCP, molto dei tempi d'oro. No, ma molto più sofferenti, mi sembra, proprio a grattare con le dita nella bara, un po' come Tarantino. Mi danno molto questi. Oddio, impressione. Anche Giovanni Lindo Ferretti gli ha dato una bella grattata, dose di sofferenza sua personale. Peccato che questa sua sofferenza personale l'abbia portato su strade che noi personalmente non condividiamo, però questo è un altro discorso. Avremo modo di parlare, Dario, di Lindo. Tu cosa ci consigli questa settimana di ascoltare? Ecco, io questa settimana mi ero preparato nel mio solito spaziettino dedicato alla musica Creative Commons, sempre sul sito di Jamendo, che per doveri contrattuali devo citare. È possibile trovare nei migliori blog, linkato nei migliori blog della rete, questo gruppo sorprendentemente italiano, anche se ha un nome inglesissimo. Sono i Ruined Machine, le macchine in rovina, che fanno un genere, un rock strumentale veramente molto gudurioso, mi verrebbe da dire, molto ben suonato per, come dire, gli amanti del genere. Forse peccano, ecco, di poca ricercatezza da un punto di vista proprio prettamente sonoro, però dal punto di vista musicale, esecutivo e delle linee ritmiche, mi sembra che sia un gruppo degno di passare sotto i canali di Back to the Human Noise, proprio anche per questa traccia che è contenuta anche nel nome, di questo ritorno a una musica per noi umani. E quindi così oggi volevo farvi sentire questa canzone che dà il titolo al loro secondo album distribuito in licenza Creative Commons. Si intitola The Grasping Hands of Possibility e contiene delle ritmiche veramente interessanti che appunto vi invito a tutti ad ascoltare e poi a farci sapere tramite il blog che cosa ne pensate anche voi, o se magari vi fanno cagare. Anche essere che oppure anche se, perché secondo me questo pezzo si presta benissimo, se volete campionare un riff di chitarra piuttosto che elettronico. Perché no? Ma allora dai, basta temporeggiare. Dopo avervi tenuto sulle spine, so che avete l'acquolina in bocca, vi lascio ai Ruined Machine, The Grasping Hands of Possibility. Eccoci quindi, vi è piaciuta Bastardi? Se vi è piaciuta, agitate i vostri torcioni in segno di approvazione. Il nostro sistema di rilevamento del fumo li conterà e poi... Sì, io ne vedo già due, tre là in fondo. Esatto, è come l'applausometro in televisione, però noi lo facciamo col fumo. E... quindi ecco, siamo qui ancora riuniti come al solito e io andrei subito direttamente, facciamo anche qua un back to back, dopo i torcioni così ce ne fumiamo uno anche noi, a sentire l'altro pezzo che avevo scelto da questo album dei Ruined Machine, che ve lo dico, l'ho scelto a caso perché non mi ero accorto che l'album è composto da molte tracce che in gergo hip hop si chiamano di intro, comunque di passaggio da un pezzo all'altro, e quindi andiamo a sentirci questa Hidden Path to the Core, che comunque rappresenta in pieno lo stile di questo gruppo, che sa essere anche molto poliedrico, ma lo sentirete voi nelle note che andiamoci a sentire. Direttamente sul pezzo, Dario, e non perdiamo altro tempo. Eccola qua. Bene, ed eccoci tornati di nuovo in studio dopo esserci sentiti questo ottimo pezzo dei Ruin Machine, molto più concreto, concentrato e direttamente a colpire l'orecchio dell'ascoltatore. Ora penso che sia il momento di cambiare un po' genere, magari riprendere anche sulla scia di Vic Chestnut il lato un po' più tranquillo e rilassato di Back to the Human Noise, perché ricordiamo, Dario, che non tutto il rumore è solo quello che è veramente distorsione e casino diretto, perché il rumore silenzioso forse è quello che colpisce di più, perché... E poi soprattutto, ritornando alla nostra concezione umana, se vogliamo dei pezzi che ci facciano provare emozioni, quindi anche soffrire come quelli che abbiamo sentito prima, molto cattivi, molto dolore, ci piace anche stare seduti, ci piace anche sentirli in chiave acustica, seduti tranquillamente su un bel divano, esatto, a fumarci seduti un torcione, sul divano a fumarci un torcione sorseggiando del tè indiano e aspettando gli amici che arrivano a portarti le birre per la serata, ecco un po' l'idea di musica che abbiamo qui. Bene, infatti a questo proposito torniamo all'acustico e parliamo di Mike Appinson, questo interessantissimo cantautore nato il 30 marzo del 1981, lui è del Texas, ha avuto una vita abbastanza travagliata in quanto... Come si dice, un'infanzia difficile. Un'infanzia difficile, lui ha avuto vari problemi di eccessi di ira, diciamo è finito in carcere per risse e storie del genere, oltre ad aver dichiarato bancarotta finanziaria a solo 20 anni, non sappiamo perché, non ci è dato sapere, ma non se ne frega neanche un cazzo. Un personaggio abbastanza travagliato che però ha trovato un suo modo d'essere all'interno della musica, riadattando gli stilemi più tradizionali del folk e coniugandoli di volta in volta e di album in album secondo differenti prospettive di arrangiamento. Infatti la sua peculiarità è di non aver mai un gruppo di strumentisti fisso, ma si sceglie di volta in volta per dare appunto inflessioni differenti all'album. Infatti si può notare come in alcuni momenti anche egli, pur avendo una natura principalmente acustica, ritorni a inflessioni molto più elettroniche o perlomeno elettriche. Riferimenti, oltre riferimenti per capire di cosa stiamo parlando, potrebbe essere il già citato Vic Chestnut, ma anche lo stesso Lou Reed, che esce molto, molto spesso nei pezzi di Mike Appinson, soprattutto perché per quanto riguarda le parti vocali e anche per la natura stessa della sua voce, che risulta essere molto piena e armoniosa, molto grave, un po', e questo ci ricorda un po' il Lou Reed di, che ne so, Perfect Day, la prima che mi viene in mente. Ma insomma, ecco, cosa ci proponi quindi, Jack? Esatto, io vi volevo proporre due pezzi. Partiamo con una canzone abbastanza rilassata e folcheggiante nel vero senso della parola, si chiama As You Can See, per poi passare, diciamo, a qualcosa di più impegnativo con cui magari ci saluteremo anche. Bene, quindi ascoltiamoci As You Can See di Mike Appinson dall'album And the Gospel of Progress. Thank you. me you'll find a way to get us in safely. I know you can't promise a thing either way. Bene, questa era As You Can See di Micah Pinson e ora... Gran bel pezzo. Gran bel pezzo, sì, molto io rilassato. Non sono un amante del genere, ma ho apprezzato questa poi sonorità. Poi molto estivo, insomma, una giornata di sole dopo una piccola parentesi di pioggia che ci ha riportato un po' il fresco in questa pianura padana di merda. E adesso si ritorna alla calma. Ritorna il sereno. Ritorna il sereno e ritorna anche il gran caldo che ci fa sudare e ci fa pestare la ascelle. Ma adesso basta con le chiacchiere, anche perché vi abbiamo già stressato troppo con le nostre fisime, vi abbiamo già stressato troppo di chiacchiere, basta. Quindi io direi di sentirci l'ultimo pezzo di Micah Pinson e con questo salutarci, anche perché abbiamo già abusato troppo del tempo a nostra disposizione. Ecco, nel salutarvi questa volta appunto l'invito è quello di seguirci per ora ospitati sul blog dell'Aula C, che è aula-c.noblogs.org. C'è il simpatico banner Segui Bart Simpson, dove ci sono tutte le indicazioni per andarsi a scaricare le puntate, per sentire i pezzi dei gruppi ed eventualmente anche trovare delle distribuzioni alternative a ricordi, per esempio, o perché no inviarci anche delle recensioni che magari noi le mandiamo su e ci facciamo un pomeriggio qua a divertirci alla redazione. No, esatto, il secondo aspetto è che noi vorremmo far diventare questa cosa un po' più interattiva di come è adesso, quindi usate il blog, usate la mail di Back to the Human Noise, che ricordo b2hnoise@autoproduzioni.net. Inviate e sarete pubblicati e poi vincerete la spugnetta del pupazzo gnappo autografata da Jack, perché il pupazzo gnappo non esiste più, è quello che passa al convento. È quello che passa il convento. Quindi bene, con un augurio di buona estate e di un caldo che vi faccia salire i funghi fino dietro le orecchie, vi lasciamo su questo pezzo di Micah Pinson. The day Texas sank to the bottom of the sea. Ciao bastardi! Ciao bastardi, buon ascolto. Up in these trees try to hang myself with thoughts of you, thoughts of me. I've been wishing so long, why can't you see? Me.